America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Just moments ago, NBC News Chairman Andy Lack sent the following note to our organization. Dear colleagues, on Monday night we received a detailed complaint from a colleague about inappropriate sexual behavior in the workplace by Matt Lauer. Beh, la bufera degli scandali sessuali continua, l'avrete vista questa notizia, una notizia di ieri. L'anchorman Matt Lauer, uno dei grandi personaggi delle trasmissioni del mattino, il Today Show, che è una delle trasmissioni più seguite sulla rete NBC, una trasmissione che ha fatto storia e che aveva la maggior presa sul pubblico americano, perché trasmette da Rockefeller Center, trasmette all'esterno, una gran quantità di fan, di pubblico si vanno ad assemblare dietro delle protezioni, delle barriere, e lì i protagonisti di questo show, in questo caso Matt Lauer e Savannah Guthrie, interloquiscono con il pubblico. Uno spettacolo davvero molto simpatico, molto coinvolgente, con delle interviste importanti. Matt Lauer, il giornalista, il conduttore più pagato in America, pensate, 25 milioni di dollari all'anno. Ecco, vi dicevo, è stato licenziato per molestie sessuali. Ormai nessuno sa più bene come andrà a finire questa faccenda. Nel caso di Matt Lauer è bastato che una giovane assistente di studio che aveva lavorato alle Olimpiadi di Sochi in Russia si recasse alla direzione del personale accompagnata da un avvocato per dimostrare e provare che Matt Lauer l'aveva molestata. Ecco, quello che abbiamo appreso è che non si è trattato di un incidente isolato. Sembra che finora la NBC potesse essere a conoscenza di qualche episodio sconveniente, ma avesse preferito finora insabbiare il caso, visto che Today è lo spettacolo di maggior successo e il personaggio Matt Lauer è un personaggio di straordinario richiamo. Tra l'altro Lauer è molto molto amico del presidente della NBC ed è stato proprio lui il presidente a licenziarlo. Qual è stata la reazione di Donald Trump? The president just responded to the news on Twitter saying, wow, Matt Lauer was just fired from NBC for inappropriate sexual behavior in the workplace. But when will the top executives at NBC and Comcast be fired for putting out so much fake news? Ecco, Trump naturalmente tira acqua al suo mulino, dice, ma quando saranno licenziati i top manager di NBC e di Comcast per aver prodotto tante fake news? Altro che molestie sessuali per il povero Lauer. Si è scatenato su Twitter Donald Trump prendendosela col presidente della NBC News Andy Lack, che vi dicevo un amico personale di Matt Lauer, e con il capo di MSNBC Phil Griffin, considerato un persecutore di Trump con fake news appunto, e tanto per non sbagliare ha attaccato anche Joe Scarborough. Ecco, per voi questi sono nomi che non suonano, ma Joe Scarborough, il conduttore del programma News delle 6 del pomeriggio, di nuovo una grande celebrità americana e soprattutto newyorkese. Questo scandalo segue quello di Charlie Rose, segue gli scandali politici che hanno colpito Al Franken, che hanno colpito Roy Moore, l'elezione in Alabama, questo ve l'ho raccontato nei giorni scorsi. E in tutto questo ovviamente qualcuno si domanda, ma quando arriverà questo cerchio ad allargarsi, per esempio nel mondo degli affari? Ancora abbiamo sentito poco su quel fronte, ma soprattutto quando arriverà alla Casa Bianca? You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Ecco, Donald Trump ha giocato d'anticipo. Vi ho riproposto quel video che era uscito durante la campagna elettorale del 2016 del programma, guarda caso, proprio di NBC Access Hollywood, dove a un certo punto, uscendo da un autobus senza sapere che i microfoni fossero aperti, Donald Trump si lasciò andare in rivelazioni, come dire, quantomeno piccanti, con il conduttore dello spettacolo Billy Bush, tra l'altro Billy Bush della famiglia dei Bush, e gli raccontava come il suo status di star della televisione gli dava carta bianca con le donne, e ci fu quella famosa frase in cui dice, ma lo sai io cosa faccio con le donne? Ma io le prendo per là, e lascio a voi l'immaginazione a quale sia la parola che lui in inglese definisce pussy. Ecco, il Washington Post fece la rivelazione, riprese il filmato e questo naturalmente è, come dire, già una prova di notevole imbarazzo per Trump nel momento in cui c'è questa ondata di puritanesimo che sta scuotendo l'America. Attenzione, un'ondata importante, qualcuno in Italia non si rende conto di quanto sia importante quello che sta capitando in questi giorni. E ho visto delle dichiarazioni di Maurizio Costanzo che dice: ma insomma le molestie sessuali ci sono sempre state, soprattutto in quel mondo. Così qualche corteggiamento magari un po' forte è sempre rientrato nella normalità. Non è così. D'ora in avanti la musica è cambiata. Si sapeva già da parecchi anni che non erano accettabili certi comportamenti nel mondo del lavoro. A questo punto, ecco, con quello che sta capitando abbiamo davvero una svolta negli Stati Uniti d'America. E come reagisce Donald Trump al pericolo incombente su se stesso? Beh, dice: ma quella voce di quella registrazione non è la mia, non è vero, è stata manipolata, è un fake news, è tutto falso. Ecco, la voce è chiaramente di Trump e, come dire, il presidente rilancia giocando d'anticipo, però persino nel suo staff, nel suo entourage, in molti sono rimasti perplessi da queste dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. Rapidamente, Trump ha anche fatto notizia ieri rilanciando, ritweetando tre video anti-islamici che erano stati distribuiti dai militanti di Britain First, un gruppo dell'estrema destra britannico. In questi video si vedevano dei giovani che venivano picchiati, un giovane in Olanda che a un certo punto attacca un ragazzino con le stampelle, però poi si viene a sapere che questo giovane era sì islamico ma era nato, cresciuto in Olanda e dunque a tutti gli effetti era olandese. Ecco, Donald Trump li ha rilanciati ai 44 milioni di persone che lo seguono su Twitter. Non è stata considerata, come dire, una cosa bella, un gesto presidenziale, ma a questo ormai ci siamo abituati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma per come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo a parlare di abusi sulle donne, dunque vi propongo una canzone che è un po' una rivendicazione della paura di essere soltanto una donna, dei No Doubt, Just a Girl. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already at fatigue. So don't let me have any rights. Oh, I've had enough to hear. The moment that I step outside, so many reasons for me to run and hide. I can't do the little things I love so dear. 'Cause it's all those little things that I fear. 'Cause I'm just a girl, I'd rather not be. 'Cause they won't let me drive late at night. Oh, I'm just a girl, guess I'm some kind of freak. 'Cause the old things stare with their eyes. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.